Orizzonti. Fotografie sonore dalla Campania multiculturale. Che lavoro fai? Come ti chiami? Come inizia la tua giornata? Siamo tutti diversi o siamo tutti uguali? Dimmi tre ricordi che porteresti con te ovunque. Quante lingue parli? Qual è secondo te una cosa inspiegabile dell'Italia? Gli alieni ti danno uno speciale raggio laser per togliere la cosa più brutta del pianeta. Che cosa vuoi togliere? Qual è il tuo colore preferito? Cosa vedi all'orizzonte? Senta. Ehi! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino! In questo episodio, Isabella. Ciao, mi chiamo Isabella Giubelan. Sono avvocato iscritta nell'Ordine degli Avvocati di Salerno e per questo mi impegno costantemente a garantire la risoluzione di problematiche attinenti al diritto civile, diritto del lavoro, famiglia e societario, cercando di stare sempre più vicino ai miei connazionali, anche con consulenze giuridiche e diverse pratiche amministrative. Non sono più giovanissima, basti pensare che ho due figli meravigliosi che a breve compieranno 16 anni Carmine a novembre e 18 anni Giulia a dicembre. La prima cosa che vedo quando mi sveglio la mattina è il meraviglioso Golfo di Salerno, il bellissimo mare, la costiera amalfitana, sì, una meraviglia della natura perché abito sul lungomare. Appena mi sveglio mi piace praticare la gratitudine, ringrazio e prego, poi mi piace immergermi per 10 minuti nella meditazione. La prima ora della giornata la dedico solamente a me, è l'unica ora sola per me, perché dopo alle 9 sono allo studio oppure vado in tribunale a fare diversi adempimenti. A mezzogiorno rientro a casa, cerco di rientrare a casa, il pomeriggio alle 16 rientro allo studio fino alle 20, dopodiché rientro a casa e mi godo la mia famiglia. Mi piace vivere esattamente qui dove sono, ho spesso nostalgia del mio paese, la Romania, dove sono nata e dove si trova la mia famiglia di origine rumena. Sono rumena, ma ormai vivo da 22 anni in Italia. Parlo rumeno e italiano e parlo benissimo l'inglese. Parlavo benissimo l'inglese e anche un po' francese, ma col passare degli anni ho un po' trascurato. Vorrei tanto riprendere a parlare l'inglese. Se canto sotto la doccia, no, non canto perché sono convinta di essere stonata. Mi piace invece sentire la musica rumena, mi mette in stato e mi dà molto conforto. Sicuramente il primo è quello di mio papà, che ho perso improvvisamente quando ero molto giovane. Poi i ricordi da quando sono diventata mamma e la gioia immensa che ho ogni volta che vedo i miei figli. Che posso dire degli esseri umani? Che gli esseri umani sono un po' come i computer programmati. Gli piace vivere secondo i loro programmi, secondo le loro convinzioni, delle volte sbagliate, dedotte da una società materialista, frenetica e superficiale, guidati spesso solo dal proprio ego, ma basterebbe collegarsi con la loro essenza umana, aggiustare le abitudini ad essere un po' più in empatia, amarsi di più e dare più amore incondizionato e soprattutto senza aspettative. Sì, siamo tutti diversi, ma in una diversità unica che ci accomuna e ci relaziona. per me è quella che l'Italia è un paese veramente meraviglioso, uno dei paesi più belli del mondo, ma in questo paese si sta portando un po' alla rovina. Gli italiani si trovano sempre più in difficoltà, un paese che ha tutto, bellezza, moda, idee, persone meravigliose, ma che oggi queste persone hanno smesso di ridere, cioè anche la giustizia italiana è lentissima e per questo delle volte anche ingiusta, anche per noi essendo questo un lavoro molto difficile. Vorrei togliere l'indifferenza degli esseri umani verso questo pianeta, Terra e verso la sofferenza dei più deboli. Gli stranieri per me non esistono, per me, come si dice, come il detto, tutto il mondo è paese. Abbiamo soltanto abitudini diverse, credenze diverse. Io amo molto i film Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, proprio perché ti fanno sentire meno straniera tra i stranieri. Per me il verde assume un significato molto positivo, il colore della natura, una natura viva che rimanda all'equilibrio fatto di armonia e amore. Per me il verde è calma e vita. Io vedo il mare, vedo l'azzurro del mare che è come la vita, sempre bellissimo anche quando è agitato. One, two, three, quattro. Montaggio, regia e suoni di Antonio Cortazzo e Giulio Scalona. Coordinamento tecnico Bahia Lahbub. Per ascoltare e condividere i nostri podcast, vai sulla pagina Facebook di Radio Antenna Migrante o su www.stranierincampania.it. RAM, Radio Antenna Migrante.